Ehi? Ehi? C'è qualcuno in casa? Ehi? Sono Chuck! Sono Chuck Bird, quello dell'Early Bird Special! Sono venuto per darvi la... Sveglia! Benvenuti all'Early Bird Special. Born through a party in the county jail. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Aloha, benvenuti all'Early Bird Special, la primissima colazione servita tutte le mattine, dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM. Cosa troverete all'Early Bird Special? Buona musica, sicuramente la migliore in circolazione per intenderci, e poi qualche chiacchiera sparata da questa vecchia ciabatta che risponde al nome di Chuck Bird, come la triste profezia che c'era dietro le parole di Get It While You Can di Janis Joplin. Ma non corriamo, perché adesso è il momento di David Lee Roth, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Get it off me. zibozibab, zibab. Grande David Lee Roth, ma non è di lui che vi voglio parlare, ma di Janis Joplin. Ogni canzone di Janis Joplin ha una storia. E queste storie sono state raccontate in un libro intitolato Cry Baby, che ogni fan di Janis dovrebbe avere nella sua biblioteca. Parla anche di Get It While You Can, il brano finale del suo ultimo album, Pearl. Dal vivo Janis lo presentava così. Questa è la canzone che voi potete applicare ed adattare a quasi tutto e potrebbe intitolarsi La Verità. Voglio dirvi che le canzoni hanno sempre qualcosa da dire, se hai voglia di ascoltare, continuava Janis Joplin. Questa è una canzone che parla della vita di tutti i giorni e di quello che ti passa vicino, di quello che ti manca e di quello che devi avere. Questa canzone si intitola Get It While You Can. Prendilo perché... Scusa. Questa canzone si intitola Get It While You Can. Prendilo finché puoi, perché non ci sarà quando ti sveglierai domani mattina. E immediatamente dopo la band attaccava col pezzo. Beh, la seconda strofa della canzone recita più o meno così. Non sai quando ami qualcuno, rischi un po' di disperazione, ma che importa, perché potremmo non essere qui domani. Questo verso fu inciso in studio, con tutto il resto della canzone, il 24 settembre 1970. 10 giorni dopo, quelle parole diventarono realtà. Honey, get it while you taking a gamble on a little song. Best rock and roll station in the world. It's Rock FM. They told us that our hero has played some card. He doesn't know how to go on. We're clinging to his charm and determined smile, but the good old days are gone. The army and the empire may be falling apart. Roger Daltrey, da solo e non con gli Who. Questa è l'Early Bird Special, la migliore musica in circolazione, soprattutto dalle 6 alle 7 di mattina. Questa è Rock FM, io sono Chuck Bird. Potete entrare in contatto con me scrivendo sulla vostra tastierina bird@radiorockfm.com. Saluto tutti gli amici dell'Early Bird Special che mi salutano, mi danno la forza di continuare nonostante l'ora è prestissima. So che siete in tanti lì fuori e so che amate rock and roll, è per questo che questa mattina ho scelto per voi I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts. Yeah. Bryan Adams, Run to You, si combatte giorno per giorno. E se siete già in piedi a quest'ora del mattino, vuol dire che avete bisogno del massimo sostegno possibile. Ehi, siete in squadra con me, passerottini e passerottine care. Chi è in squadra con il vecchio Chuck Bird si merita il meglio. Vi regalo una bella frase che ho letto nel nuovo romanzo di Chuck Palahniuk. Il futuro che avrai domani non sarà lo stesso che avevi ieri. Journey, anytime, all'Early Bird Special, che in questo momento deve prendersi assolutamente una pausa. A quest'ora mi ci vuole proprio una tazza di caffè nero bollente, e naturalmente a portarmela non può che essere la dolce, elegante. Posso dire anche sensuale, diciamo sensuale, Cherie. Grazie, Cherie.